siamo partiti da lui, dalla sua umanità, da questa sua non voglia di arrendersi, tant'è che lui diciamo aveva anche altre possibilità, come poi hanno fatto anche gli altri due ragazzi coinvolti nella storia, di andare via, di fuggire, e lui è rimasto e ha combattuto sino all'ultimo, sino al 13 febbraio del 2012, quando gli è stata comunicata la sua assoluzione piena, sì, la sua innocenza. Sì, sì, sì. Senti, in chiusura, Salvatore, ci ricordi queste prossime date? Certo, le prossime date saranno a Milano, al Teatro Libero, il 24, il 25 e il 26 di novembre, al Teatro Libero. Venite tutti, perché è una storia, diciamo, necessaria, commovente, una storia, secondo me, che vale la pena e è necessario raccontare. Senti, per saperne di più c'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì. C'è una pagina Facebook, Malaguma Teatro, io però sono il meno tecnologico della compagnia, quindi non ti so. Comunque Malaguma Teatro è la pagina Facebook. Perfetto. Salvatore, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, saluta Massimo. Okay. Ciao. Ciao, ciao, ciao, un abbraccio e buon lavoro, grazie. Ciao, anche a voi, ciao.